Economia in Europa. In collaborazione con Euronet. Il confronto fra Italia e il resto d'Europa in materia di previdenza integrativa. I dati sulla produzione industriale messi a confronto con gli altri paesi dell'Unione. Il resoconto dell'attività della Banca Europea per gli investimenti. Sono questi i principali argomenti di questa puntata di Economia in Europa. La riforma delle pensioni è stata uno degli ingredienti più importanti della riforma Salva Italia del governo Monti, che con misure molto decise e richiedendo non pochi sacrifici, ha messo il bel paese sotto una luce diversa anche di fronte agli interlocutori europei. L'Italia però resta ben al di sotto della media europea in materia di previdenza complementare. A sottolineare il dato è stato Antonio Mastrapasqua, presidente dell'INPS, l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale Italiano, ai nostri microfoni lunedì 19 marzo. Ricordo due cifre importanti. Europa media 91% di persone che hanno una previdenza complementare, Italia 23, oggi si dice forse 24. Allora che cosa bisogna immaginare? Che se la previdenza complementare, ovvero se tutti i soggetti privati non riescono a sostenere la previdenza complementare, ecco, l'istituto, l'INPS, ma non lo dice l'istituto l'INPS, lo dice la legge, quindi l'ha detto il governo e il Parlamento, devono comunque attivarsi e aiutare la previdenza complementare. E l'ha detto anche il ministro oggi, ha detto un cruccio che nella riforma non mi sono potuta dedicare troppo alla complementare, ma sicuramente c'è ancora il tempo davanti. Secondo lei quale potrebbe essere lo step dopo che la riforma Maroni ha portato appunto i lavoratori a poter far confluire il TFR nei fondi complementari? Quale altro step potrebbe essere utile? Oggi diciamo che gli strumenti ci sono tutti. Oggi serve far capire alle persone, non tanto spaventandole, ovvero dicendo guarda che tu non avrai la pensione perché avrai il 35%, oggi ho sentito anche il 37%, come fa qualcuno a dire 37 è abbastanza difficile. Oggi ci sarà un tasso di sostituzione reale rispetto a quello che hai versato, per quanto tempo, a che età tu vorrai andare in pensione. A quel punto ti si dice guarda che se tu appena cominci a lavorare versi poco ma lo versi regolarmente, guarda che potrai incrementarlo. Se lo spieghiamo, se si spiega serenamente, senza demonizzare nel pubblico e tantomeno il privato, e senza far sì che il privato demonizzi il pubblico, anche perché io raramente vedo una persona che dice beh se il pubblico va male allora a questo punto ti verso di più, beh quella persona naturalmente andrà nel sommerso, quello che credo che noi tutti dobbiamo combattere e sconfiggere. Allora con l'onestà intellettuale di dire, e quello lo sta facendo l'INPS con una sforzo di informatica incredibile, ovvero rendere a tutti quanti la conoscenza del montante contributivo, che non è poco. Se hai questa conoscenza e se si dirà sempre di più in tutti i modi che serve un secondo pilastro, avendo la disponibilità dei numeri, avendo la capacità e la possibilità di decidere quanto ti serve per incrementare e integrare la tua pensione, credo che facciamo un salto di qualità sicuramente civile rispetto al resto dell'Europa, che l'ha fatto tanto tempo. Quindi adesso ci sta dicendo che mancherebbe solamente uno sforzo comunicativo un po' più forte. Sicuramente. Secondo i dati Istat, il fatturato dell'industria italiana a gennaio è calato su base mensile del 4,9% e su base annua del 4,4%. Si è trattato del ribasso tendenziale più forte da novembre 2009. Sebastiano Barisoni ha commentato questi dati, mettendoli a confronto anche con le altre realtà del vecchio continente, con Franco Bruni, docente di economia monetaria internazionale all'Università Bocconi, editorialista della Stampa. Sentiamo. Quanto tempo bisognerà aspettare per avere anche delle politiche di carattere sulla crescita, delle politiche industriali? Perché insomma, oltre all'Italia, la Spagna è così ferma che ha dovuto negare subito dopo averli presi gli impegni che aveva preso con l'Europa. Il Portogallo si sta avviando pericolosamente in una situazione greca. Cioè qua la sensazione è che tutti i tagli, che pure fanno bene, mettono in ordine i conti pubblici, quant'altro, da soli non possono bastare. Cioè oltre all'antibiotico devi dare anche le vitamine. Non c'è dubbio. I dati che lei però mi legge sono coerenti con un PIL che è previsto scendere in modo significativo nel 2012 sulla media del 2011. Insomma, non è che mi sento meglio però. No, però insomma non c'è una sorpresa ed è inevitabile che in un periodo di aggiustamenti così violenti, diciamo degli squilibri macroeconomici che ci sono stati, questo periodo duro ci sia, dobbiamo approfittarne per fare le riforme e per fare quelle politiche diciamo di crescita che a cui lei accennava, che vanno fatte sia a livello nazionale che a livello europeo. Non mi scorderei però che quando ci sarà la ripresa, se ci sarà e se sarà buona, sarà una ripresa selettiva, cioè non tutte le imprese e non tutti i settori riprenderanno nello stesso modo, solo quelli che si saranno adattati in modo migliore a una situazione di concorrenza internazionale completamente diversa. Cioè, questo è un periodo dove non solo bisogna fare le riforme dall'alto, ma dove le imprese devono fare le riforme dal basso, cioè devono cercare di disegnare la loro strategia con un'ottica innovativa. È una gara che fanno in tutto il mondo, perché un po' tutti stanno andando male. Comunque il messaggio che lei ha dato, diciamo, di fondo lo condivido in pieno, cioè non si può limitarsi all'aggiustamento dei disavanzi, bisogna anche dare una prospettiva e soprattutto stimolare dal lato dell'offerta, la crescita dei mercati. Quindi lei dice attenzione, perché è coerente con le attese, e poi la ripresa sarà selettiva. Però, professor Bruni, perché la ripresa è selettiva ma la crisi invece colpisce tutti? Beh, non è del tutto vero, ci sono alcune episodi abbastanza isolati, ma di imprese che se la cavano, e soprattutto sull'export, alcune imprese di nicchia, lo si legge sui giornali, e certi settori resistono meglio. Questo è un grande, lungo periodo selettivo dove ciascuno deve fare la sua parte e soccomberanno coloro che non vogliono cambiare. Ecco, no, questo lo diciamo molte volte, lo spieghiamo agli imprenditori in tutte le occasioni che abbiamo, però una cosa me la deve dire, visto che lei insegna economia internazionale, tutto questo ragionamento, cioè Monti sabato non è che abbia parlato molto di fase 2, cioè ha parlato molto di Fiat, di mercato del lavoro, di TAV, ma non è che abbia fatto capire cosa intende fare per la fase 2. Ma il mercato del lavoro è fase 2 però. Sì, ho capito, perché lo si rende, secondo l'obiettivo del governo, più attraente per gli investimenti. No, per me fase 2 sarebbe risorse, cioè riduzione del cuneo fiscale, riduzione delle tasse in busta paga, aumentare un po' il potere d'acquisto, alleggerire un po' le tasse per le imprese che devono competere, iniziative a livello europeo. Allora, una banca centrale europea che magari possa garantire in ultima istanza i debiti, per cui non torniamo fra un anno a parlare di Grecia e magari assieme al Portogallo. Si può immaginare una fase 2 senza la Germania o con la continua opposizione della Germania? Perché sennò stiamo a parlare del nulla. Cioè le risorse nostre sono limitate, non ce la facciamo da soli. La Germania è essenziale per diversi aspetti di questa fase 2. Prima fra tutti le liberalizzazioni nel settore dei servizi, che sarebbero la cosa principale per accelerare il mercato unico europeo, che è la nostra la vera carta da giocare sul piano della concorrenza globale. L'unica vera carta che ha l'Europa è il suo enorme mercato interno. Quindi se noi giochiamo questa carta bene e acceleriamo l'unificazione del mercato e l'abolizione di tutte le barriere interne, nel giro di un anno o due possiamo mettere l'Europa in una situazione competitiva molto diversa. Naturalmente per molte delle nostre imprese questa sarà una sfida, e una sfida molto difficile, perché competere su un mercato non protetto è molto complicato, ma questo è, come si dice, la regola del gioco. Per uscire dal pasticcio in cui ci siamo infilati con le pessime politiche degli anni scorsi dobbiamo andare verso una grande trasformazione, è una grande sfida. Ah, perché quello che spaventa è che noi abbiamo firmato il Fiscal Compact, e quindi siamo d'accordo nel ridurre, nel portare in 20 anni il nostro debito al 60% del PIL, visto che al 120 vuol dire ridurre di 3 punti percentuali all'anno per 20 anni il debito. 3 punti di PIL sono 45, anche un po' di più, 48-49 miliardi di euro all'anno. No, però senta, non facciamo confusioni, no, basta andare in pareggio con il deficit. Ho capito, siamo al 3. Comunque, va bene, detto ciò, quello che mi chiedo, insomma, quando lei vede che la Germania è l'unico paese in Europa che si sta avvantaggiando di questa crisi, sono bravi i tedeschi perché hanno le imprese grandi che sono sui mercati. No, senza il mercato unico non ce la fanno neanche i tedeschi. Allora non è che si stiano avvantaggiando anche delle difficoltà degli altri, perché quando hai una classe di studenti che sono rimandati a settembre, svetta ancora di più chi non è rimandato. Cioè, voglio dire, non c'è anche un vantaggio indiretto che la Germania sta avendo da questa, dal suo atteggiamento? Se noi non andiamo bene, non esportano, è abbastanza, perché possono esportare solo fuori dall'Europa, e fuori dall'Europa le cose non vanno affatto bene. In America andranno sempre peggio. Stanno, diciamo, cercando di drogarsi ancora un po', ma fra un po' anche loro segnaleranno chiaramente i limiti. La Cina sta rallentando, e quindi la Germania ha, anche lei ha nel medio periodo, l'unica speranza è una vera ripresa in Europa, ed è questo che sta portando i tedeschi a ragionare seriamente sulle politiche di crescita, perché non è vero che i tedeschi sono contro. I tedeschi sono un po' divisi, hanno, diciamo, una formulazione politica del loro progetto sempre difficile, però sono i più europeisti di tutti, mi creda, molto più dei francesi. Il vero pericolo viene dalla Francia. Il 2011 è stato l'anno record dei fondi erogati in Italia dalla BEI, la Banca Europea degli Investimenti. 9,1 miliardi di euro, di cui 3,5 alle piccole e medie imprese. Il dato è stato annunciato lunedì 19 marzo durante la presentazione dell'attività della Banca Europea per gli Investimenti dello scorso anno. Nel 2011 infatti sono stati siglati nuovi contratti di prestito per 8 miliardi e 400 milioni di euro, pari ad un sostegno finanziario a progetti del valore totale di circa 24 miliardi. Lunedì 19 marzo il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha ricevuto al Quirinale il Presidente della BEI, Werner Hoyer. In seguito Hoyer ha avuto un incontro operativo con il Ministro dello Sviluppo Economico, Corrado Passera, e nel pomeriggio ha incontrato il Presidente del Consiglio, Mario Monti. Hoyer si è detto abbastanza ottimista sulla situazione dei mercati e ha sottolineato come le riforme fatte in Italia vengano seguite con molto rispetto. Sentiamo quanto ha detto il Presidente della BEI sia sull'Italia che sulla situazione economica europea. I must say I'm very much impressed by what has been done within a few months in Italy. Sono molto colpito da ciò che è stato fatto nel giro di pochi mesi in Italia. Si è avviato un percorso di riforme molto profondo e sono consapevole del fatto che gli italiani stanno facendo molti sacrifici. Credo però che ne valga la pena per raggiungere l'obiettivo finale. Quanto fatto finora da Mario Monti viene molto rispettato sia in Europa che altrove, e sarà così anche in futuro. Inoltre, l'Italia ha solide fondamenta industriali e un forte sistema di piccole e medie imprese. Inoltre, abbiamo visto sviluppi politici ed economici notevoli e promettenti per il futuro. Credo che siamo sulla strada giusta, anche nel processo di cooperazione con le istituzioni italiane, e sosteniamo le piccole e medie imprese. Dopo il disastro di Lehman Brothers, la BEI è stata chiamata a fare di più e lo ha fatto aumentando l'attività dei prestiti. Ora però c'è una crisi diversa. C'è la crisi dell'euro, c'è il problema dell'occupazione e della competitività. Penso che l'Europa sia sulla strada giusta. Naturalmente c'è ancora molto da fare, soprattutto sul fronte dei conti pubblici. Gli Stati stanno percorrendo una fase di consolidamento delle finanze pubbliche, ma ora si deve passare ad attuare le condizioni sufficienti per la crescita, puntando su innovazione e occupazione. Ed è qui che il ruolo della nostra banca diventa significativo. E per questa settimana con Economia in Europa è tutto. Economia in Europa, in collaborazione con Euronet.